Franco, prendi bene nota di questo titolo perché serve per i crediti. Allora, vuoi che ti porti al cinema o preferisci che ti faccio io i burattini a casa? Sottotitolo? 7 e mezzo. No, 40. 40. Non ho tempo, sai, per dirti che sei bella come andare al cinema. 30. Non ho tempo, sai, per dirti che il tuo viso è una cometa che continua. 20. Non ho tempo per cantarti, che per me è come una giostra. 10. Non ho tempo per spiegarti che con te 4, 3 ti amo e basta.